Euroreportage. Chi paga Dazio per il riso? Produttori europei contro la UE. Di Laura Bettini. Correva l'anno 2009 quando furono aboliti i dazi sul riso provenienti dai paesi asiatici a regime EBA. È un acronimo che significa Everything But Arms. Tutto eccetto le armi. Si riferisce alla possibilità di 49 paesi in via di sviluppo di esportare nell'Unione senza dazi qualunque prodotto, eccetto armi e munizioni, appunto. Gioirono cambogiani e birmani a questa decisione, che cominciarono rapidamente a beneficiare della situazione. Annotava due anni fa COPACOGECA, l'Associazione Europea degli Agricoltori, che nel periodo 2009-2014 la sola Cambogia ha aumentato le proprie esportazioni verso l'Unione Europea del 4.200%, il Myanmar solo del 400%. A discapito ovviamente in gran parte dei produttori europei della varietà lungo B indica, quella che arriva adesso dall'Asia ma che era ampiamente coltivata anche in Italia, che è il primo produttore europeo di riso, grazie a un piano di incentivi europei degli anni 80-90. A fronte delle proteste, l'Unione raccomandò nel 2015 alla Cambogia di stabilizzare i volumi di export verso l'Europa, ma la richiesta non fu accolta. E così la Commissione ci ha riprovato quest'anno, durante l'estate, inviando una delegazione che ai cambogiani però non ha strappato risposte definitive. E così l'Italia è diventata capofila della protesta, convocando per gennaio 2017 gli Stati Generali del Riso a Milano. Paolo Carrà è presidente dell'Ente Nazionale Risi. Col passare del tempo abbiamo visto che il vero arricchimento è stato per le multinazionali che in questi paesi hanno costruito degli impianti di trasformazione. E quindi il grande problema è che la Commissione non ha verificato se il risultato di queste concessioni ha dato i frutti sperati. E soprattutto è una Commissione che purtroppo aspetta che il danno si manifesti e prima di intervenire. Un dato allarmante è che da due anni in Italia la superficie investita a riso indica, che è lo stesso riso che viene prodotto in questi paesi PMA, in Italia questa superficie si è addirittura dimezzata. E questo significa uno scompenso tra la produzione japonica nostra e la produzione di riso indica, con delle ripercussioni sul mercato non solo italiano ma sul mercato europeo. Era forse la coltivazione più diffusa? L'impatto sulla risicoltura italiana? L'impatto, basta pensare che, fatta 100 la produzione italiana, il 30% è destinato al mercato domestico e il 70% è esportazione. Quindi per l'Italia il riso è un prodotto da esportazione. Di questo 70%, più della metà è riso indica. E questo quindi già chiarisce qual è l'impatto di queste importazioni ad Dazio Zero. Esportazione verso altri paesi europei? Sì, verso altri paesi europei, e l'Italia quindi si è vista venir meno determinati mercati europei che oggi appunto sono soddisfatti con prodotto proveniente da questi paesi mediamente avanzati, Cambogia in primis. Un problema italiano perché l'Italia è il primo paese produttore in Europa di riso, ma è un problema che riguarda i francesi, che riguarda i greci, che riguarda tutti i paesi produttori, che riguarda anche le industrie di trasformazione, in particolar modo sia quelle italiane ma anche quelle del Nord Europa. Le industrie del Nord Europa prima erano aziende che commercializzavano, quindi importavano e trasformavano. Oggi questo prodotto che arriva dai paesi PMA arriva addirittura confezionato in confezione da 1 o da 5 kg, quindi arriva già pronto sullo scaffale. Ecco perché a livello europeo c'è una comunione di intenti tra produttori e trasformatori, e l'evento di gennaio 2017 ha proprio questo scopo: unire produttori e trasformatori di tutti i paesi europei insieme a funzionari dirigenti dei ministeri preposti, in modo che ci sia un'unica voce a Bruxelles. Un'unica voce per il ripristino dei dazi, ma di quali cifre stiamo parlando? Roberto Magnaghi, direttore del Centro Nazionale Ricerche sul Riso. Siamo agli inizi di una campagna di commercializzazione che si apre con un aumento della superficie investita a riso, sono 234.300 gli ettari stimati a riso, ed sarà come lo scorso anno una campagna che, per quanto riguarda il riso indica, incontra una riduzione delle superfici. Come lo scorso anno abbiamo 33.000 ettari rispetto ai 75.000 ettari che avevamo solo due campagne fa. Chiedere per curiosità, se ne è prodotto di meno, ma è stato sostituito da altri tipi di riso o è stato abbandonato proprio quel campo in cui si faceva quel riso? No, è stato sostituito da altri tipi di riso, che sono sempre i risi tondi, medi e risi da risotto, con l'aggravante del fatto che comunque questo andrà a costituire una pesantezza di mercato e quindi una difficoltà a commercializzare dei risi che sono già a domanda rigida. E quindi questo certamente, come ha già creato in questa campagna di commercializzazione, potrà comportare un aumento delle scorte di fine campagna. Basta dire che quest'anno anche l'Unione Europea, nei dati che ha dato agosto, ha messo in evidenza che gli produttori dalla campagna scorsa a questa campagna hanno riportato più materia prima rispetto alle altre campagne di commercializzazione, quindi si è venduto meno. Piero Garrione ha fama di grande esperto nel settore dei risi, ma è anche un imprenditore agricolo. A suo tempo scelse di produrre il lungo B indica. Ma in realtà la comunità si è sempre comportata da buona mamma e non da matrigna, nel senso che insomma attraverso la PAC ha organizzato bene il settore. Quello che invece è mancato è un po' una contraddizione rispetto all'indica, perché negli anni 80-90 tutto sommato ha capito che il consumo comunitario poteva essere anche alimentato da una produzione comunitaria e ha dato gli incentivi per poter produrre l'indica, aiuti aggiuntivi a quelli che già sosteneva allora attraverso i dazi e oggi attraverso solo la PAC. Noi abbiamo fatto questa riconversione e l'industria ha acquisito praticamente i clienti, li ha forniti in questi ultimi 20 anni. Adesso questa apertura ai paesi del sud-est asiatico, che sono dei nostri competitori a prezzi molto bassi, se non si dà una limitazione in qualche modo a queste importazioni, come era successo con i PTOM, la clausola di salvaguardia, veramente il settore subisce dei contraccolpi o comunque deve diminuire fortemente l'investimento in risicoltura, perché il lungo A purtroppo, pur facendo sforzi importanti in questi anni, ha un mercato a domanda fissa e quindi non possiamo aumentare il lungo A sperando di avere nuove linee di commerciali. Dunque, perché il lungo A è quello per risotti, il lungo B è invece l'indica, quindi più adatto come contorni, molto usato nel nord Europa, dove adesso evidentemente si consuma più quello asiatico. Voi nel frattempo come vi siete mossi? Cioè avete abbandonato questa coltivazione, l'avete ridotta? Ci stiamo adattando a soluzioni diverse, però con grande difficoltà, perché i terreni della risaia sono terreni che difficilmente si prestano, se non dopo anni e anni ad una, come posso dire, alternazione di colture o una rotazione, non so, fare mais, grano o soia, certo. È molto più difficile nei nostri terreni che non in altri, dove da sempre questo tipo di attività si mette in opera. Fortunatamente il riso italiano piace sempre di più in patria come all'estero, ma le minacce sono potenzialmente infinite. Roberto Magnaghi. A livello internazionale diciamo bene, perché una persona su due mangia riso, ma non è il caso del riso italiano, perché con il riso italiano diciamo un po' che si soddisfa proprio anche il palato, non è soltanto l'esigenza alimentare. Abbiamo assistito negli ultimi 4 anni a un lieve incremento del consumo del riso in Italia. Da 5,5 kg pro capite siamo passati a 6, anzi qualcosa in più, dovuto a due fattori. Il fatto di avere il riso come amico e quindi essere inserito nella dieta anche dal punto di vista salutistico, la questione celiachia, ma anche una maggior consapevolezza del messaggio che anche oggi diamo, che col riso si possono fare piatti dall'antipasto al dolce. E il secondo elemento è il fatto che il riso viene molto utilizzato anche per preparare prodotti diversi dal riso in quanto tale, grissini, cracker, eccetera. Due osservazioni sull'ultimo periodo, diciamo, economico mi vengono in mente. Quello che sembra essere ormai il fallimento del TTIP, TTIP detto anche, e dall'altra parte le sanzioni russe ai prodotti no, agroalimentari che vengono dall'Europa. Allora, inizio da quello dell'embargo russo, non ha riguardato il riso e quindi questo non ha creato problemi. Per quanto riguarda invece i TTIP, allora tralascio il problema della convenienza del nostro paese, mi rivolgo all'attenzione riguardo al riso. L'agevolazione tariffaria per far entrare del riso senza pagare dazio per noi sarebbe un disastro. Meno male che la trattativa per il TTIP si è bloccata, sostiene Magnaghi. Almeno affrontiamo un nemico alla volta. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.